Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Quando uno pensa al vino, il Chianti e il Barolo, cosa gli viene in mente? Subito, un lombrico. Un lombrico, esatto. Partiamo. E per parlare del rapporto tra il lombrico e il prosecco, abbiamo qui con noi Maurizio Paoletti, benvenuto. Benvenuto a questa occasione di parlare di lombrichi. Ecco, perché lei è un super esperto, lei lavora, fa ricerca. Sì, mi chiamano il signore degli anellidi. Il signore degli anellidi, bellissimo. Perché se il termine rigoroso è anellidi. Perché lei si occupa proprio di anellidi per l'Università degli Studi di Padova e ha fatto una bellissima ricerca che va avanti veramente da tanti anni sul rapporto che c'è appunto tra gli anellidi, che sono dei lombrichi, e in particolare quelli che studia lei sono tra i più grandi che abbiamo in Italia e che sono addirittura endemici di una zona, che è quella che adesso lei ci descriverà, dove si produce il prosecco. E sembrerebbe che il prosecco buono in parte sia dovuto al fatto che ci sono i lombrichi sotto di lui. Allora, la storia è questa: alla fine dell'Ottocento uno studentello friulano, Attellini si chiamava, raccoglie a Ragogna, alle foci del Tagliamento, sotto un grosso masso, un lombrico enorme variopinto che porta al suo professore di zoologia di Pavia, che si chiama Daniele Rosa, il quale il mese dopo lo descrive nel bollettino del Museo di Storia Naturale dell'Università e dà il nome Eofila Tellini, cioè dà il nome di questo studente. Il lombrico è lungo circa 80 centimetri. Quindi lunghissimo. Grande, e poi tutto è colorato. È il lombrico italiano ed è colorato a bande di colore rosso e viola scuro. Bello, quindi molto anche elegante. Una livrea estremamente appariscente e molto curiosa. Ecco, questi sono lombrichi scavatori. Adesso ci spiegherà cosa fa significa. Parte, di questo lombrico, Eofila Tellini, fa parte di lombrichi che fanno gallerie in profondità e che vengono in superficie e di notte e soprattutto quando piove o il terreno è molto umido, perché si nutrono di lettiera, ossia di foglie cadute dagli alberi. Ecco, questa specie assieme ad altre caratterizza i suoli perché dà una tipologia di suolo molto fertile e molto particolare, di colore grigio scuro, poroso, eccetera. Il fatto che sia così fertile è dovuto anche al lavoro e al, diciamo, il lavoro di scavo dell'ombrico? Sì, perché scavano in profondità e poi mescolano lo strato superficiale della lettiera con gli strati profondi, oltre che creando della porosità nel suolo attraverso le gallerie, quindi penetrazione di aria e di acqua nel suolo. E come le è venuto in mente che ci potesse essere una relazione tra appunto il lombrico che sta sotto e poi il vigneto e quindi il prodotto del prosecco di qualità? Questo è automatico, direi, perché questi lombrichi dirigono l'attività di batteri e funghi, ossia condizionano la tipologia e la specificità dei batteri e funghi che vivono nel terreno. E quindi dove ci sono questi lombrichi c'è una certa tipologia di batteri che non c'è altrove. Questo è il punto. Quindi la parte vivente del suolo, formata da qualcosa come 5.000 generi di batteri e forse 50.000 specie batteriche, è direzionata da questi lombrichi che fanno queste gallerie in profondità. Questa è una specie endemica, quindi vuol dire che esiste uno strettissimo rapporto, un rapporto unico tra questo lombrico e il vitigno che allora dà il prosecco, che è il glera. Bene, questa Eofila Tellini, descritta nel 1888, è rimasta tale ed è stata raccolta in tempi recenti dal Tagliamento fino all'altipiano di Asiago. Poi avevamo visto che gli esemplari, diciamo da Vittorio Veneto fino ad Asiago, erano più piccoli e avevano delle caratteristiche morfologiche differenti. Un po' diverse. Per cui ci siamo decisi, anche in base alla parte genetica, al barcode, di denominarlo Croda pepis, cioè l'abbiamo denominato come specie nuova. Quindi oggi abbiamo due ofile, una orientale che vive in Friuli, che è Tellini, e una occidentale, Croda pepis, che copre tutta l'area classica del Prosecco. Cioè ad ogni lombrico corrisponde il suo Prosecco, diciamo. Ecco, io so che lei ci tiene a dire anche un'altra cosa, che lei è preoccupato anche di questa relazione, perché viceversa alcune tipologie di viticolture sono molto dannose per i lombrichi e questo rapporto indissolubile potrebbe in qualche modo rompersi. Allora, questi lombrichi profondi scavatori creano tipologie di suolo eccezionali, spariscono però dai terreni quando i terreni sono costipati, cioè calpestati, se si usano prodotti fitosanitari in misura eccessiva e soprattutto i fungicidi sono molto tossici, ma anche gli insetticidi, eccetera. E quindi solo con un basso impatto di prodotti non tossici e evitando il calpestamento è possibile mantenere questo tipo di popolazioni di profondi scavatori. Abbiamo capito insomma che c'è un rapporto univoco molto delicato che sarebbe da mantenere e anche i viticoltori dovrebbero essere promuovere. Esattamente. Cioè bisogna che si rendano conto che hanno l'oro nel loro terreno di cui non si sono mai resi conto. Ecco, e noi oggi gliel'abbiamo spiegato. Grazie mille al Signore degli Anelli di Maurizio Paoletti. Buon lavoro. A voi, buon lavoro. E per oggi è tutto, Federico. Torniamo a raccontare le tecnologie del cibo e dell'alimentazione nella prossima puntata di Food Lab.